atteso, arriba a spinto de su vento, su frago de un atteggiamento, d'un tendo, comprendo galento, a su gento bogento, con su pensamento e con su allenamento, cambia sa cultura ma non cambia su strumento, bianco se niedo su, sempre vi ciocchedo su, rima se fuedo su, pistola se cotedo su, sempre vi ciocchedo su, seci su, a pizza e muretto se blocchetto su, vendi progetto su, mano su, passanta esano su, deo se barra argomento insano su, non se galau a patto sarricato su, si gusa, tradizioni de sanziano su, nuda me in mano su, scetti sa bucco, betta bo fai danno su. Tutti tutto bravo su, spuranta giudizio su, tenita regioni sempre gusto su, ma devo andare in anti, mancai a musio su, mancai a musio su, aiuti che mica sa locanda e no, yeah, de atteso, arriba sa voce, arriba, aiuti.